Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Ormai è fatta, di Ors Fantazzini, parte quarta. La lotta contro l'ingiustizia, da qualsiasi parte venga e quali che siano i mezzi usati, è sempre e comunque una giusta lotta. A partire dal più piccolo esecutore d'ordini, passando da coloro che questi ordini danno, finendo dagli invisibili mandarini che questi ordini ispirano, non esistono innocenti. Siete tutti, a partire dal più piccolo ingranaggio e finendo al complesso cervello che fa funzionare la macchina, responsabili di questo iniquo sistema sociale, sistema che è assurdo pensare di migliorare. Amico compagno, tu che dai il tuo potere in mano ad un rappresentante parlamentare per la gestione della società, tu che dai il tuo potere in mano a un rappresentante sindacale per la determinazione della tua tariffa d'operaio, svegliati. Non accettare più di delegare chi che sia, di decidere per te. Rivendica il tuo diritto di uomo capace di riconoscere ed ottenere i tuoi diritti. I tuoi diritti, amico, sono quelli d'essere un uomo economicamente uguale ad ogni altro uomo. Se le tue facoltà fisiche o intellettuali sono superiori a quelle di chi ti circonda, queste tue facoltà, questi tuoi doni naturali, non debbono essere usati come una piattaforma per elevarti al di sopra dei tuoi compagni, meno dotati, ma debbono essere utilizzati come un tesoro collettivo. E questo fatto dovrebbe darti maggiori soddisfazioni del televisore, ultimo modello che il tuo vicino di casa non può permettersi, o di altre cose sofisticate quanto inutili che ti permettono in questa società in cui ogni valore morale è sovvertito di sentirti forte, intelligente, arrivato. Contesta il giocattolo che schiere di sociologhi ed economisti illuminati stanno programmando per te e per i tuoi figli. Alla società dei consumi, alla civilization des biseurs, opponi il modello della nuova società, quello della dignità umana, ottenibile solo tramite l'estirpazione dell'egoismo individuale, familiare o di classe. Svegliati, amico, e svegliandoti diventa finalmente un uomo, uomo nel concetto più bello concepibile di questa parola. Grasso smette temporaneamente di fissarsi le dita e mi esprime la sua preoccupazione per la sua famiglia. Mi chiede il permesso di telefonare ad un suo cognato per incaricarlo di tranquillizzare la famiglia. Non vedo alcuna difficoltà per accontentarlo. Al primo tentativo trova suo cognato al proprio posto di lavoro. È all'oscuro di quanto sta succedendo. Lo mette velocemente al corrente della situazione e gli raccomanda la propria moglie ed i suoi figli. Il mio pensiero torna a scivolare verso mia moglie, i miei figli, mio padre, gli amici, e poi penso a lei. Gatito, il mio dolce, fedele, affettuoso gatto. Forse è lei che in questo momento sta maggiormente male. È molto emotiva e basta o niente per metterla in crisi. Strana creatura, da 8 anni... quando sa dove mi trovo, mi copre di premure e tenerezze. 8 anni fa, quando ci conoscemmo, sembrava davvero un gatto selvatico e, dopo qualche giorno, si mise a fare le fusa. Non siamo più stati insieme da allora, ma è come se non ci fossimo lasciati mai. Strano rapporto il nostro. In questi anni mi ha scritte forse più di 1000 lettere. Non mi chiede assolutamente niente, una parola buona di tanto in tanto, il permesso di fare le fusa sui ricordi di tanti anni fa. Piccolo grande gatito, quante sofferenze devi avere avuto nella tua vita per attaccarti così tenacemente ad uno sbandato come me. Se la base spinge il sistema, cambia lentamente e sociologhi illuminati, impiegati per far sopravvivere il sistema, programmano la società futura, la civilisation de l'usuars, consentendo di mantenere inalterati gli attuali rapporti di classe. Riforme, riforme, riforme. Così facendo si sposta il problema, ma non lo si risolve. Il problema non risiede nella quantità di beni materiali che l'operaio prostituto può riuscire a strappare al padrone, ma nel fatto di eliminare le parole padrone e salariato dal vocabolo sociale. L'avvento di una nuova società potrà rappresentare per tanti venditori di forza e di cervello un momentaneo regresso materiale, ma rappresenterà un irrinunciabile salto morale. Niente riforme che non fanno che allontanare lo scioglimento dei nodi di fondo. Rifiuto, rifiuto totale, rivoluzione, rivoluzione permanente. Sì, criticate i cinesi. Giudicateli con il vostro assurdo metodo di macchine, televisori, vestiti, lavatrici pro capite. La Cina, prima dell'avvento della nuova era, era qualcosa di inqualificabile. Rileggete la cronaca dell'epoca. Bambini morti di nedia, raccolti dagli spazzini nelle strade. Uomini ridotti a cose sulle quali il padrone aveva diritto di vita e di morte. Oggi in Cina non si muore più di fame. L'uomo sta acquistando una nuova dignità umana che non esiste da nessun'altra parte, Russia compresa. Televisori, automobili. Sì, ridete della monotona uniforme blu che caratterizza il popolo cinese. Certo, gli abiti dei mandarini erano più lussuosi, ma ditemi, a che cosa serve un indumento? A ripararsi dalle intemperie o per manifestare la propria potenza economica? A che serve un'automobile? Per spostarsi o per dimostrare al proprio vicino di casa che noi, avendo un'automobile più bella, siamo più intelligenti, più potenti? Gli oggetti hanno una funzione ben determinata e questa funzione non cambia se la proprietà ne è collettiva, anziché privata. In Occidente gli oggetti hanno perso la loro funzione originaria, trasformandosi in simboli di potenza. Per questo ognuno di noi, condizionato dal modus vivendi di questa società dei consumi, sente il bisogno di possedere il televisore ultimo modello, lavatrice come nuovo gadget tecnologico, la macchina di cilindrata maggiore. Questo non unicamente per vedere programmi televisivi, per lavare, per spostarsi o viaggiare, ma per sfoggiare la propria capacità d'acquisto che in questa società deviata determina il proprio peso sociale. Quale importanza se solo un quinto della popolazione mondiale partecipa al festino dissanguandone i rimanenti quattro? Per gli esclusi che non si adeguano ci sarà sempre un poliziotto per arrestarli, una prigione per emarginarli o una fossa comune per seppellirli. Sì, ridete degli uniformi abiti blu dei cinesi, del loro numero di beni di consumo pro capite, ridicolmente basse, ma tra noi e loro c'è una differenza fondamentale. Noi dobbiamo prostituirci giornalmente, loro stanno percorrendo una strada che li porterà a diventare degli uomini liberi e ad acquistare una dignità che i nostri santoni definiscono ancora utopistica. Suona il telefono. L'ispettore mi dice che il ministero, in via ufficiosa, ha accettato le mie richieste. Adesso lui resta in attesa della conferma ufficiale per procurare quanto da me richiesto. Mi invita di nuovo a desistere dal mio progetto, dicendomi che niente di irreparabile è ancora successo. Al mio rifiuto si offre come ostaggio al posto delle due guardie. Resto notevolmente sorpreso e non lo nascondo. Gli dico che il suo è senz'altro un bel gesto. Rifletto velocemente. Cosa ci sarà sotto? Forse fa tutto parte di un piano preordinato. A tempo ed a luogo debito, a mia insaputa, potrebbe favorire l'intervento delle forze dell'ordine. Un guasto alla macchina, un posto precedentemente convenuto. No, preferisco i miei due ostaggi, che valgono senz'altro poco alla borsa che determina il valore della vita umana in questa società infame, ma che non sanno, come me, cosa stanno preparando fuori e che quindi non possono essere d'alcuna utilità ai fabbricanti di trappole. Rifiuto. Lui insiste, dicendo che nonostante l'età ed il diabete è ancora un valido guidatore. rifiuto gentilmente. Poi, più per ironia che per altro, dico che sono comunque disposto a scambiare i miei ostaggi con il procuratore capo di Torino. Ore 16:45. Sto riflettendo alla proposta dell'ispettore e cerco di immaginare cosa può esserci sotto. Forse volevano tentare un'azione di forza e l'ispettore, per non lasciare il fianco scoperto ad eventuali critiche, ha fatto questa offerta preferendo rischiare di persona piuttosto che essere censurato per avere fatto correre rischi a due povere guardie. Raddoppio l'intenzione. Cosa faranno là fuori? Ore 16:40, un tiratore scelto entra nel carcere con un Winchester 250 con cannocchiale, un'arma che uccide anche a 150 metri di distanza. La Stampa, 24 luglio 1973. Il silenzio assoluto. Tra breve saranno trascorse 8 ore da quando stamane mi sono fatto accompagnare in matricola, ma le dico in cuor mio d'aver sparato a Gian Quinta. Se non gli avessi sparato, forse la situazione non sarebbe precipitata e a quest'ora sarei fuori lontanissimo. Gian Quinta, perché non hai parlato? T'avevo detto chiaramente che t'avrei sparato. Se non l'avessi fatto, ogni mia successiva parola avrebbe perduto inevitabilmente di credibilità. Piccirillo mi ricorda di insistere per il caffè alla prossima telefonata. Dice che, come d'accordo, sarà lui a guidare la macchina e, dato che non sa sino a quanto durerà, un termos di caffè gli farebbe bene. Anch'io berrei volentieri un caffè, ma solo un'oretta dopo la mia cavia. Ore 17. Mi avvicino ad una finestra e, senza espormi, osservo il grande cortile interno. I miei compagni sono là. Chi passeggia, chi discute, due giocano alle bocce. Facile indovinare i loro discorsi, i loro pensieri. Chi l'avrebbe mai detto? Fantazzini, quel ragazzo così tranquillo, così educato. Certo, a pensarci bene, era un poco strano, taciturno. Sì, gentile con tutti, ma senza legare troppe amicizie. Sempre in cella a leggere o a scrivere. Negli ultimi tempi giocava spesso a pallone, forse per mettersi in forma. Il trillo del telefono mi distoglie dalle mie fantasticherie. È il prete, Don Felice. Strano, come mai ha atteso tanto per telefonare? Inizia il prevedibilissimo discorso per farmi desistere. Non posso lasciarlo continuare, altrimenti con la sua dialettica monopolizzerà il telefono. Lo interrompo. Mi scuso per i modi un po' bruschi, ma cerco di fargli comprendere che è da escludere che lui possa fare qualcosa per me. Sono solo, totalmente solo. Io solo sono responsabile di questo guaio e io solo debbo cercare d'uscirne. Insiste, dice che salirà per farmi compagnia. Lo diffido energicamente. Se sentirò aprire la porta di ingresso, non esiterò a sparare. Non posso sapere chi entrerà dalla porta. Può essere lui, Don Felice, potrebbe essere la polizia. Potrebbe essere sia l'uno che gli altri. Se ci tiene all'incolumità degli ostaggi e della propria, non faccia sciocchezze. Il minimo rumore alla porta d'ingresso ed io comincerò a sparare. Gli dico di passare l'ispettore e lo congedo salutando. Non è un prete antipatico, si sente spesso in colpa per la sua diplomazia, per il piede perennemente in due scarpe. Sì, certo, non mi dava i giornali politici che alcuni amici mi inviavano. Un prete, insomma. Ecco, l'ispettore al telefono. Decido di forzare i tempi per vedere le loro reazioni. Chiedo risposte ufficiali e non ufficiose. Dico che comincio ad innervosirmi. Dico che se cercano di guadagnare tempo per stancarmi e sorprendermi, facciano attenzione, perché tutto ciò che otterranno saranno 3 cadaveri caldi. Mi dice di stare calmo, che nessuno vuole sorprendermi. La vita degli ostaggi è quanto sta loro maggiormente a cuore. Intanto, dice, si interesserà per trovare la cifra da me richiesta. Chiudo la comunicazione e rifletto sulle sue reazioni, sul suo tono di voce. Mi sembrava sincero. Dico agli ostaggi che, se tutto andrà bene, potranno ringraziare il nuovo ministro che sta forse cercando di evitare di inaugurare la sua nuova carica con una valanga di polemiche e critiche che un'azione di forza non mancherebbe di scatenare. Grasso non è rassicurato. Improvvisamente mi trovo a chiedermi quali possano essere le sue idee politiche. Forse fascista, come tanti suoi colleghi? In questo caso ha ragione ad essere preoccupato. I fascisti in una situazione del genere non terrebbero in alcun conto la vita degli ostaggi per ristabilire l'ordine e l'autorità calpestate. Il sangue versato non sarebbe mai troppo. La mia calma mi sorprende. Da un po' di tempo, con fine libidine, getto le mie scicche sulla moquette del direttore. Infantilismo, certo, ma dopo 5 anni di condizionamento. Ore 18. Silenzio. Comincio a pensare di mandare un ultimatum per vedere se questa risposta dal ministero non è che una scusa per tenermi tranquillo sino a quando loro fa comodo. Cerco di telefonare il meno possibile, così il logoramento è reciproco. Cosa staranno facendo là fuori? Alle 18 il sostituto procuratore generale di Torino, Ottavio Benedicti, ha consegnato al maggiore dei carabinieri Emanuele Tuttobene del gruppo di Cuneo un'ordinanza con la quale lo si autorizza ad assumere tutte le misure necessarie per fare cessare la commissione dei delitti flagranti con tutte le cautele e non compromettere l'incolumità dei due ostaggi. Autorizza a tale fine il suddetto comando ad accedere nel cortile della prigione per l'esecuzione di quanto sopra. Questo corrispondeva alla decisione di uccidere il bandito, dice il maggiore Tuttobene. Gli articoli 52, 53 e 54 del codice penale sulla legittima difesa, sullo stato di necessità e sull'uso legittimo delle armi parlano chiaro. Dicono che si può intervenire in questo modo quando si è costretti dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità. La Stampa, 25 luglio 1973. Lunghi periodi di silenzio, graffiati da un cancello che si apre e che si richiude. Fosse inverno, a quest'ora sarebbe buio. Potrei pretendere subito quanto chiesto. Rompere questa esasperante attesa e uscire finalmente fuori. Affrontare l'ultimo atto di questa sfida. No, è meglio che sia estate. Fosse inverno non potrei tentare la realizzazione del piano che ho in mente. Più ci penso e più mi piace questo piano. Squilla il telefono. Nella cornetta un incrociarsi di voci. Poi una notissima simpatica voce che protesta, forse con la centralinista, per chiedere la linea. È l'avvocato Mario Giulio Leone, il compagno di tante battaglie perse e vinte. L'avvocato che ha portato avanti con caparbietà una linea di difesa originalissima ed intelligente, selezionando con pazienza convenzioni internazionali forse inedite in Italia. Chili di carta, distanze, ricorsi, corrispondenze con avvocati e procure sparse in tutta Italia. Vittorie e sconfitte. Alcuni procedimenti erano già in avanzata fase di giudizio, allorquando gli furono affidati. Qualche successo iniziale e poi la resa davanti al reazionario codice fascista. Pane e gaudio d'un magistrato di corte d'assise d'appello, un magistrato della vecchia guardia e dalle altrettanto vecchie nostalgie. L'amico Leone è molto emozionato, la sua voce è sull'orlo del pianto. Lo vedo come se fosse davanti a me, la sua voce mi trasmette chiaramente le sue emozioni. Mi dà sensati consigli. Quando li rifiuto, mi dice di liberarmi del personaggio che m'hanno appiccicato addosso, di strapparmi l'etichetta della primula del rapinatore gentile, d'essere solo me stesso, d'agire unicamente in base al mio interesse, che è quello di desistere da un'azione senza possibilità di uscita. Gli rispondo che il folcloristico personaggio è morto stamane, quando per la prima volta ha fatto fuoco contro degli esseri umani. Adesso c'è solo un uomo disperatamente solo. Andrò fino in fondo. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me. Gli ricordo quel giorno che a Bologna venne a tirarmi fuori dalle celle di punizione, dove mi trovavo ricoverato con la pancia piena di chiodi inghiottiti la sera prima per attirare l'attenzione sul mio inspiegabile linciaggio giuridico. In caso questa storia dovesse finire tragicamente, gli raccomando la mia famiglia. Ad ogni modo, comunque vada a finire, voglio che sappia che oltre ad un ottimo e serio avvocato, l'ho considerato e lo considero un buon amico. È commosso. Debbo interrompere. Lo autorizzo ad informare mio padre di quanto sta accadendo, cercando comunque di fare desistere il vecchio dal telefonarmi. Prima di interrompere, l'avvocato dice che mi richiamerà. Sono turbato, ma anche più sollevato. Mi sembra di essere meno solo, anche se mi rendo conto che lo sono disperatamente. Con l'ausilio dell'elenco cerco di collegarmi con corrispondenti di giornali nazionali. Non ci riesco ed è normale, perché tutti i corrispondenti risiedenti a Cuneo stazionano senz'altro davanti al carcere. Finalmente riesco a pescare il corrispondente della Gazzetta del Popolo. Ore 18:14. Squilla il telefono nella redazione della Gazzetta del Popolo a Cuneo. Una voce tranquilla, sicura, chiede: «Pronto, chi parla di persona?» Rispondo: «Sono Franco Collidà». L'interlocutore si presenta: «Sono il detenuto delle carceri di Fossano che tiene due guardie in ostaggio. Le chiedo di seguire con attenzione quello che sto per dire. Dal giornale radio ho ascoltato un racconto inesatto su cosa è avvenuto questa mattina. Per favore, prenda degli appunti». Dire che sono rimasto senza fiato è troppo poco. Tutto mi aspettavo, meno che Os Fantazzini, protagonista della drammatica vicenda del Santa Caterina di Fossano, mi telefonasse per far sapere cosa aveva fatto con esattezza, per chiedere via libera alla sua fuga notturna, per illustrare il suo curriculum vitae. Mi precipito al registratore e la conversazione ha inizio. È riportata con assoluta esattezza, con le pause e le interruzioni. Preciso ancora che ad un certo punto Horst Fantazzini, per dare credibilità alle sue parole, ha passato il telefono ad uno dei suoi ostaggi, il brigadiere Grasso, che mi è apparso calmo, con i nervi a posto durante il colloquio. Il bandito ha continuato a mostrare sicurezza, padronanza di se stesso ed assoluta determinazione. Fantazzini: «Non è stata una ribellione, ma un tentativo di evasione. Io sono arrivato in portineria con la pistola, ho minacciato gli agenti di custodia presenti che si sono ribellati. Si sono rifiutati di aprirmi la porta. Uno mi è venuto addosso ed io ho sparato. Poi ho sparato anche all'altro». Collidà: «Un attimo, ha sparato solo lei?» Fantazzini: «Sì, ho sparato solo io. Poi mi sono recato in direzione ed ho preso due persone in ostaggio che sono qui davanti a me. Questa è la verità dei fatti». Collidà: «E adesso cosa succede?» Fantazzini: «Io ho telefonato al suo giornale, non perché abbia una particolare simpatia, ma perché è l'unico col quale mi è riuscito di mettermi in contatto». Collidà: «Va bene, continui». Fantazzini: «La situazione è questa. Mi è stato assicurato dal procuratore della Repubblica che il ministro di Grazia e Giustizia ha dato il suo consenso di accettare le mie richieste, che sono una macchina ed una piccola somma di denaro, non come riscatto per i prigionieri, ma dato che debbo improvvisare tutto, se per caso riesco ad uscire da questo pasticcio, voglio avere un po' di soldi in tasca. Mi è stato assicurato che tutto sarà fatto. Io le voglio dire questo affinché, se dovesse andare male, che almeno ci sia un giornalista, un giornale, che sappiano perché sarà andata male». Collidà: «Si spieghi meglio. Adesso, se io uscirò da qui con la macchina e due ostaggi, uno alla guida e l'altro seduto accanto a me, la buona riuscita dell'impresa dipenderà dalla polizia. Ciò nel senso che non dovranno cercare di bloccarmi per la strada, fare dei posti di blocco, seguirmi troppo da vicino, nel senso che è una partita che si gioca tra me e la polizia. Nel secondo tempo, nel momento in cui io abbandonerò la macchina, non ci saranno più in gioco vite che non c'entrano con questo fatto. La partita si giocherà tra me e la polizia unicamente». Collidà: «Lei garantisce quindi che lascerà liberi gli ostaggi?» Fantazzini: «Sì, io lascerò liberi gli ostaggi al momento opportuno. Vedrò se vi sarà una piccola possibilità di salvarmi, poiché vado incontro all'imprevisto. Non so ancora che strade farò. So che posso salvarmi, o almeno che ho una possibilità su 100 di salvarmi. Allora tenterò e lascerò liberi gli ostaggi. Quindi, se dovesse capitare qualcosa di spiacevole, io le dico: sono deciso. L'ho detto con il procuratore e con tutti. Praticamente mi gioco la vita su questa avventura e andrò fino in fondo. Però vorrei evitare spargimenti di sangue inutili. Purtroppo ho già ferito 3 persone. Una è in condizioni gravi e vorrei, se possibile, che non ho odio personale contro queste guardie che si trovano qui, che non capitasse niente altro. La loro vita è nelle mie mani, soltanto perché voglio liberarmi di questa prigionia. Collida, mi ascolti, è già sera, lei cosa fa adesso? Va via subito? Fantazzini, sono in attesa di una telefonata di conferma del Ministero di Grazia e Giustizia. Aspetto la conferma ufficiale, poi stabiliremo le modalità. Vorrei aggiungere anche questo. Lo dico a lei che è un giornalista. Penso che qui davanti al carcere ci siano diversi suoi colleghi. È ormai da parecchie ore che dura questa storia, quindi io faccio un appello anche ai giornalisti di non disturbarmi. Non vorrei che mi seguissero quando uscirò. Lei comprende qual è la situazione? Collida, comprendo, prosegua. Fantazzini, comprendo che è difficile chiedere tutto questo ai giornalisti perché è il loro mestiere, ma chiedo per cortesia di non essere infastidito. Se vuole, le passo per conferma che questa telefonata non è una presa in giro, uno degli ostaggi. Collida, d'accordo. A questo punto una pausa da alcuni istanti. Si sente all'apparecchio un leggero tramestio, quindi una voce diversa. Chiede: pronto, con chi parlo? Sono Collida della Gazzetta del Popolo. Ed io sono il brigadiere Grasso degli agenti di custodia di Fossano. Sono uno degli ostaggi. Quello che ha telefonato è Fantazzini. È tutta la verità. È tutto vero. Quindi è esatto. Preghi i suoi colleghi di assecondare in quanto ha detto Fantazzini. Il telefono ritorna in mano al detenuto che aggiunge: volevo aggiungere altre parole. Lei si chiederà come mai ho fatto una cosa del genere. Pensavo di uscire pulito, senza sparare. Ho trovato resistenza ed è andata a finire così. Secondo elemento, io mi trovo in questa situazione, mi trovo in carcere per una serie di rapine fatte in banca, che ho fatto da solo, senza mai spargimenti di sangue. Tanto è vero che all'epoca i giornalisti si divertivano a chiamarmi il rapinatore gentile, il rapinatore solitario. Questo nel 67 e nel 68. Poi sono stato arrestato. Sono in carcere da 5 anni, di cui 4 fatti all'estero, e sono ritornato in Italia recentemente. Mi trovo sulle spalle una condanna a 22 anni e debbo ancora essere processato per 5 rapine. Penso che questa condanna sia sproporzionata perché equivale all'ergastolo, senza avere mai ferito o ammazzato qualcuno. Io quindi, con questo gesto che faccio oggi e che avrei voluto evitare o farlo diversamente, con questo gesto io rifiuto la condanna, rifiuto i codici e cerco di strappare con tutte le mie forze la libertà che mi è negata. Ha compreso? Collida, ho capito. Fantazzini, è tutto, non posso trattenermi oltre. Devo controllare la situazione. Arrivederla. La Gazzetta del Popolo, 24 luglio 1973. Franco Collida. Bene, il fatto di aver parlato con un giornale è una cosa positiva per me, perché ora i giornalisti hanno anche la mia versione delle trattative che si sono svolte in queste ore. Ora, se la situazione precipiterà per la stampa più o meno libera, questa telefonata potrà essere utilizzata per ricostruire i fatti. Con Collida l'ho detto chiaramente. Se magistratura e polizia tengono realmente all'incolumità degli ostaggi, debbono muoversi con leggerezza di farfalla, non con l'usuale passo da elefante. Quando gli ostaggi saranno lasciati liberi, e anche adesso, l'unica vita in gioco sarà la mia, anche se sono l'unico a sapere questo particolare. Libri ribelli. Gioca. sole ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.